Allora, pronti, facciamo una velocissimi oggi, eh? Sì, dai, dai. Allora, pronti, puntata di martedì. Martedì. Grazie. Grazie, buonasera, ci vediamo domani. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Cosa? Di qualcosa tu? Niente. Cioè, no, niente. Eccetera, eccetera, potevi dire. Eccetera, vabbè. Eccetera. Allora, ci sono 350 parole che un bambino di 2 anni deve sapere, se no vuol dire che ha dei problemi. Mamma e papà, biscotto, tutte quelle robe che riguardano un po' la famiglia e il cibo. Me ne hai dette tre. Vabbè, adesso altre, ce ne sono altre. Sentire 347 sì. Parole. Non so, cucchiaio. Cucchiaio. Sì, perché devi mangiare col cucchiaio. Oppure, non lo so, la pappa. Banana. Zio, zia. Nonno, nonna, mela, quelle robe lì. Il fatto non è che dette 347. Si sta verificando comunque il fenomeno della scomparsa del papà, capito? Cioè adesso cominciano a spuntare bambini che dicono magari PlayStation, ma non dicono papà. Cosa vorrà mai dire? Ma che cosa vorrà dire, Drago? È ovvio, no? Che il papà non lo vedono mai. Beh, certo, se sono figli di madre single, ovvio che non lo vedono mai, però. Beh, in quel caso però vedono i fidanzati della mamma. Infatti, fidanzato della mamma è una delle parole nuove che i bambini piccolissimi hanno cominciato a dire insieme a viaggio a Disney World e iPad. Ma iPad è facile da dire per un bambino. iPad, è vero, sì. Guarda, Steve Jobs, secondo me, sono sicuro, ha voluto inventare una parola il più possibile infantile. Dici? Capisci? Ma certo, iPad suona un po' come papà, no? In effetti, iPad, iPapad. No? Papà, iPapad. Quindi bel bambino, vuoi più bene la tua mamma o il tuo iPapad? Come funziona? E la risposta è tutt'altro che scontata, Papà! iPapad! It's me, Mario! Giocare. Manovra. Su, su. Giù, giù, giù. Forza. Creare. Tassa. Probabile. Ridurre tassa è certo che non succederà. Passi in avanti. Avanti. Genuflessione. Deve penetrare di più. E ora bambini, ricreazione. Che ha detto Alberto? Gildo! Gildo! Che cos'è che hai detto? Riunione Negroni! Ah, ha detto riunione Negroni! Vabbè, allora sembra riunione! Riunione! Vabbè, sembra di sì! Allora, capo! Capo! Qual è l'ordine del giorno? L'ordine del giorno! No, ma sentite, qui c'è qualcosa che non va, perché tutte le volte dobbiamo incominciare la riunione come fosse la prima, no? Con casino fa! Qui poi ci piantiamo sull'ordine del giorno perché Gildo non è in grado di fare niente! Questo si salve, ma se lo sbaglio, sei tu che hai insistito a far entrare Gildo nella nostra società. Prima, all'inizio, eravamo in due, io e te, e tutto andava benissimo. No, non andava benissimo. Come? Perché io dovevo cacciare gli euro a fondo perduto, e quindi ho fatto entrare Gildo, che ha il capitale, facile, perché si tratta di circonvenzione di incapaci, no? Circonvenzione di incapaci! Ma quale circonvenzione di incapaci? Oh! Ma che dici, Alberto? Ho capito, Iores, ma io come faccio? Cioè, Gildo per me è una specie di ombra, no? E poi mi sta sempre addosso, poi... Raccontala giusta, Alberto! Cosa? Lo sanno tutti! Che cosa? Sarà mica quella storia dell'amico immaginario, No, no, Alberto, no? La mamma di Gildo... La signora Milfia, per me è lei il motivo che ti porti sempre appresso Gildo. Uè, ma a me questa roba che tiri in ballo la signora Milfia a nomini così in vano, non mi sta bene, Questa signora è una signora elegante, no? È la mamma di Gildo, È elegante proprio. E tu non devi neanche permetterti di dire il suo nome. Ma che dici? Lo sanno tutti che riceve. Riceve. Ma come? Tua mamma riceve? Sì, vabbè, riceve nel senso riceverà mazzi di fiori, no? Dagli ammiratori. E lettere, no? Lettere d'amore. E perché una signora così elegante... Sì, sì, Albert, ma svegliati! Che le riceve e in cambio non chiede fiori. Ma soldi? Mamma, mamma! Ma signore, stai zitto, non vedi che spaventi il bambino? No, è pur sempre sua mamma, no? Mamma, mamma! Beh, bello, che si fa? Vuoi tenerlo Gildo nella società o lo espelliamo? Ma come si fa? Come si fa? Votiamo che lo espelliamo. 2-1 e si ricominci da 2. Come nel film quello napoletano. Ma a parte che quelli erano 3. Tre! E poi comunque, dai, poverino, io ci sono affezionato. A parte il lato economico, che ancora non abbiamo capito come risolvere. Qui io il grano non ce l'ho detto più. Quindi io comunque soprattutto ci sono affezionato. Sì, ho capito, ma a Gildo o a sua madre? E che discorsi, fai differenza, tutti e due, no? Ma soprattutto la signora Milfia, no? Perché c'è lì c'è anche il lato materno, no? Il lato materno! Magari il lato materno. Poi mi sentirei colpa nei tuoi confronti. Cioè, assuggere il latte dalle mammelle di chi ti ha assuggere, io però pure io c'ho un fratello di latte. Ma cosa c'entra fratello, anche io c'ho un dente di latte, allora? Every Gildo boy and girl all around the Gildo world gonna do the Gildo rock all around the Gildo clock. Check me Gildo, check me quick, check go under Gildo geek all around the Gildo clock. Ti ricordi di Pietro Mennea, capo? Ma certo, chi può dimenticare Mennea col Mennea. Ditino su, in alto? Sì, col dito indice però, non faceva nessun Guarda gestaccio. C'ho una strozza. No, attenzione, 118. Stomaco. Carmelo, 118. C'ho una strozza allo stomaco. Ma come si chiamerà questa strozza allo stomaco? È morto. No, è morto, non sono morto, sono ancora qua. Ti stai riprendendo? Ah. Pensa a Mennea, lui quando è arrivato alla fine lì, 100 metri. Ah, che bruciore! No, ma cos'è successo? Attenzione, 118! Ti ricordi di Pietro Mennea? Ma certo, chi può dimenticare Mennea col ditino alzato? L'indice. L'indice che batte tutti alle Olimpiadi di Mosca. Certo che me lo ricordo. Ecco, se noti però, dopo di lui non abbiamo più avuto nessuno così forte nei 100 e 200 metri. Non so. Quindi? E la colpa è dei videogame. I videogame. Sì, lo dicono in Norvegia quelli dello Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. Ah, ecco. Una, si spera, autorevole rivista scientifica norvegese. Si spera. Dice che dagli anni 90 in poi le prestazioni atletiche dei ragazzi delle scuole sono calate di brutto. Erano sempre state più o meno uguali dagli anni 50 agli anni 80 e poi con l'avvento dei videogame il crollo. Questi sono numeri, vale più uno studio come questo che 1000 contro le merendine, che poi noi qui facciamo lo sponsor delle merendine, quindi dicono sempre non mangiate le merendine, lo sport, eccetera. Mangiate le merendine, però insomma, non giocate ai videogame, se continuiamo così non avremo più dei Mennea. Vabbè, ma lo studio parla dei norvegesi, no? Cosa c'entra Mennea, scusa? Vabbè, però se tu, non so... Non so, Usain Bolt allora? Cosa? Secondo te Usain Bolt non ha mai giocato con un videogame? Non lo so. Guardalo, scusa, c'ha 25 anni, è della Giamaica. Tutto allegro. Avrà passato tutta l'infanzia su un divano a giocare a qualche videogame. Un divano con le molle rotte, sicuramente. E corre molto più veloce di Mennea. Ah, giusto. E quindi? Quindi i norvegesi, è meglio che continuino a fare il merluzzo, esportare il merluzzo, un po' di petrolio anche così, però insomma, Mennea non c'entra. K qui dice che all'ospedale Gaslini di Genova, che è un ospedale pediatrico, hanno inaugurato una sala giochi per i pazienti bambini. Bello, no? È una notizia anche. Una sala giochi? Sì. Hai appena detto che i videogiochi fanno male alle prestazioni atletiche dei norvegesi. Ma quelli sono bambini malati che vivono all'ospedale, probabilmente passano lì tutta la loro vita. Cioè le prestazioni atletiche forse non rientrano nelle loro priorità. E poi sono a Genova, no? Sono mica norvegesi. Vabbè, anche quello. I'm gonna miss Eliza. Sì. I'm gonna go to Mississippi. Miss Eliza. I'm gonna miss Eliza. I'm gonna go to Mississippi. Bene, allora il Mississippi aspetta K, invece io rimango qui all'asilo Stoppani e vi aspetto puntuali domani alle 16.45. Continuate a seguirci su Facebook e magari mandate anche una mail a chiedoasilo@radio24.it. Ma chi è Eliza? I'm gonna go to Mississippi.